Storie italiane. La gru e il granchio. C'era una volta una gru che viveva vicino ad un laghetto. Era solita catturare del pesce che trovava nel laghetto. Tutti i pesci lo odiavano, ma lei amava mangiare i pesci perché... I pesci sono così gustosi! La gru aveva sempre un pasto completo. Gli piaceva procurarsi il cibo per i suoi pasti. Che cosa mi sta succedendo? La gru stava diventando più vecchia e più debole. Non era in forma come al solito e i suoi voli erano diventati più lenti. Oh, sono già molto stanco! Quando si tuffava per prendere il pesce, il più delle volte i pesci scappavano perché i suoi movimenti erano lenti. Ho dei dolori alle articolazioni, questo è un problema! Non andare laggiù! La gru ti mangerà! Ah, non ti preoccupare! Non è riuscita a mangiarmi nelle ultime 2 settimane, lo stavo stuzzicando! Ma vedo che non può nemmeno muoversi! E prima che provi a prendermi, sarò molto lontano da lui! Ah, cibo! Ah, ti ho preso! Oh! Ma cadde sul fondo dell'acqua mentre i pesci nuotavano via con i loro amici. L'hai visto? Ora non abbiamo bisogno di temere la gru. Col tempo divenne così debole che non riuscì più a procurarsi cibo. La situazione ormai era chiara. I pesci nuotavano tutti intorno e lui non riusciva a prenderli. Oh, maledico questa vecchiaia! Come posso provare a mangiare? Ho fame, non mangio da 2 lunghissimi giorni! Un giorno era estremamente affamato. Non aveva mangiato proprio nulla negli ultimi giorni. Per soddisfare la sua fame, senza molte fatiche e problemi, escogitò un piano. Oh, so che cosa devo fare adesso! Per testare il suo piano, si sedette sul lato del laghetto con una faccia cupa e senza la minima intenzione di catturare i pesci. Il pesce, le rane e i granchi si chiedevano perché mai non stesse cercando di catturarli. Oh, sembra così triste! Forse avrà fame? Morirà? Un grosso granchio, vedendo la triste gru, si avvicinò. Ciao, vecchia gru! Qual è il problema? Ti vedo molto triste. Ci sono alcune brutte notizie su questo laghetto. Che notizie? Cioè? No, mi spiace, ma non ho il coraggio di dirtelo. Dimmi di più. Se riguarda il laghetto, noi dobbiamo saperlo. Viviamo qui. Ok, se insisti. Sono preoccupato. Il laghetto presto sarà privo di pesci. E i pesci, sai, sono la mia fonte di cibo. Un laghetto privo di pesci? Ma come? Perché? Ho sentito che alcune persone vogliono coprire il laghetto di terra. Perché intendono costruirci sopra, amico mio? Accidenti! Questa è una brutta notizia. Devo dirlo agli altri. Sarà terribile! Sarà terribile! Tutte le creature del laghetto si preoccuparono dopo aver sentito la storia della gru. Oh, amici, che cosa dobbiamo fare adesso? Puoi ancora vivere sulla terra, ma non in acqua. Non sopravviveremo. Ah, che meraviglia! Il panico si è diffuso! Trovando la situazione a suo favore, la gru disse... Non fatevi prendere dal panico, c'è una via di uscita! Davvero? Sì! Amici miei, conosco un laghetto un po' lontano, dove tutte le creature si trovano al sicuro. Se qualcuno di voi fosse interessato, posso portarvi con me ogni giorno nell'altro laghetto, dove tutti voi sarete al sicuro. Oh sì, per favore, aiutaci! Aiutaci! Aiutaci! Aiutaci, per favore! Tutti nel laghetto furono felici di ricevere l'aiuto della gru. Ma ho delle condizioni. Quali? Quali? Quali? Quali? Avrò bisogno di riposo tra un viaggio e l'altro. Sono vecchio. e sarò in grado di portare solo pochi pesci alla volta. D'accordo. Sì, d'accordo. Per me va bene. Va bene. Le creature erano pronte per andare con la gru, accettando le sue condizioni. Nel primo viaggio, la gru prese dei pesci col becco. Ma invece di portarli in un altro laghetto, li portò su una collina vicina e li mangiò tutti. Ah, finalmente, che bello! La mia fame è stata saziata! Dopo aver riposato per qualche minuto, i morsi della fame tornarono. Perciò decise di fare un secondo viaggio. E in questo modo la gru poteva ottenere di continuo tutto il pesce senza fare alcuno sforzo. Nel giro di pochi giorni riacquistò la sua salute e divenne robusta. Anche il granchio voleva essere salvato. Per favore, portami con te nell'altro laghetto. È una ghiotta occasione per provare del cibo diverso. Ok, ti accompagnerò nel prossimo viaggio. Iniziò il viaggio e volò per molto tempo. Dimmi, gru, è lontano questo laghetto? La gru capì che il granchio era una creatura abbastanza ingenua e non avrebbe mai capito quali fossero le sue vere intenzioni. Tu sei pazzo! Pensi che io sia il tuo servo? Non c'è nessun laghetto qui intorno. Ho ideato questo piano per potervi mangiare tutti. Ora tocca a te. Preparati a perdere la tua misera vita! Il granchio capì il piano malvagio della gru. Ah, io non morirò così, gru egoista! E senza perdere tempo, strinse immediatamente le sue chele affilate attorno al collo della gru. Ah, mi fai male! Io ti farò male ancora di più! Il granchio staccò la testa alla gru. Così la gru perse la vita. Il granchio si incamminò piano piano verso il laghetto e raccontò l'intera storia a tutte le creature che lo abitavano. Tutti quanti ringraziarono il granchio per il suo sforzo. Oh, granchio, sei così intelligente! No, la gru ha perso la vita perché era molto avida, non a causa della mia intelligenza! Morale della storia: ricordate sempre che l'avidità eccessiva è dannosa.